montagne russe, presso una parca a Viale Rossi. Agata lo guarda dalla casa delle streghe, facendo di nascosto delle mosse. Con in mano un fiore di ginestra, si presenta un giorno alla finestra. Una voce dice: si incomincia un'altra corsa, così riparte il giro della giostra. Notti chiare a guardare la luna nel cielo con te, e notti scure a capire perché non sei qui con me. Lui lavora con il tiro a segno, oh oh, e raccoglie i premi con impegno, eh eh. Agata lo guarda dalla casa delle streghe, alle prese con il marchingegno, il brucomela e la filibusta. Agata si mette sempre in mostra. Una voce dice: accorrete che si parte, ricomincia il giro della giostra. Notti scure a guardare le stelle nel cielo con te, e notti chiare a pensare perché non sei qui con me. Capito ormai la beffa, i contendenti volano gli oggetti contundenti. Agata li guarda dalla casa delle streghe, ma nel parco già si spregano i commenti. E gli ex amici fissano l'incontro, tutto si risolve all'autoscontro. Ah! Una voce dice: altro giro, nuova corsa, ecco che riparti un'altra giostra. Un'altra giostra. Notti chiare a guardare la luna nel cielo.